Amen. Poi viene, ti piace? E io dico sì, non ho capito niente perché mi hanno inondato di parole, di tante cose, però poi dicono ti piace e io dico sì. Così è con tutti quanti noi, ma è vero, appartenerci e realizzare quello a cui il Signore ci ha chiamato è il bene più grande. E questa sera quello che desidero trasmettere a tutti noi, a me per prima, è proprio il segreto più grande, più semplice e più naturale per uscire vittoriosi in ogni situazione che viviamo, ed è il proclamare. In pratica è una continua di che abbiamo già detto, e andiamo subito a leggere il passo di Romani al capitolo 10, il verso 9. Conosciamo molto bene questo passo, vedete quello che è scritto: poiché se con la tua bocca, poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Che proclamazione! Ma quello che non mi piace è proprio la parola più piccola. Se. Ma allora il Signore mette delle condizioni. Se il Signore mette delle condizioni, sì, il Signore mette le condizioni, ma sono delle condizioni così naturali, le stesse condizioni. Cioè, per continuare a vivere c'è una condizione. Qual è la condizione per vivere? È detto in italiano, ci va mangiare e bere. Che fatica, è vero? Per niente. Non è che tu lo fai e dici io devo mangiare perché devo continuare a vivere. Tu mangi e basta. È la stessa cosa. E per quanto riguarda la nostra vita con il Signore, vuoi vincere e superare ogni situazione? Allora il Signore dice, proclama, confessa con la bocca, confessa proprio ad alta voce, dillo all'altro, comunicalo, proclama e poi credi. E poi credi, oppure prima credi e poi proclami, è la stessa cosa. Che cos'è proclamare? È dirlo, è rendere noto in maniera certa e con fermezza. E credere è esattamente credere a quello che proclami, a quello che dici, a quello che confessi, altrimenti non funziona, ma questo è nella vita di ogni giorno, questo è per ogni situazione, questo è per tutto quello che viviamo, e ancor di più quando noi vogliamo vivere e vogliamo vincere secondo quello che il Signore a cui ci ha chiamato. Ora, questa sera, noi vogliamo vedere in maniera molto semplice come, quando, a che cosa noi dobbiamo proclamare, quando proclamare. E ci sono alcuni esempi di vita, a me piacciono molto gli esempi di vita della parola di Dio, e ci sono tanti esempi, tante storie, ci piacciono leggere le storie, no? Allora, quelle sono tutte nella Bibbia, anche le parabole, Gesù ha insegnato con le storielle e con le parabole e ci ha fatto capire che cosa fare. Beh, io ho preso alcune di queste storie per comprendere quando, come e che cosa proclamare. Il primo passo che noi andiamo a leggere è, l'abbiamo già letto, sono due passi che io sto riprendendo dall'altro, non è che io lo so che non è già, però voi fate segno con la testa, sì, l'abbiamo, ci ricordiamo, perché questo è incoraggiante, sapete? È talmente incoraggiante, dice, oh, vedi, mi ascoltano, non mi hanno sentito, ma mi ascoltano. Luca, capitolo, lo abbiamo già letto, capitolo 4, verso 18, un paio di settimane fa. E questo è Gesù, vedete? È Gesù che parla e dice, lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi. La prima cosa che io ho pensato quando ho letto questo passo, ho pensato, ma proprio ha scelto il momento sbagliato e il luogo sbagliato Gesù per andare a proclamare questo. Dove ha proclamato questo? Vi ricordate? È un coro proprio che si alza. Direttamente dal cuore, ma solo dal cuore sta venendo fuori. Dove? Sì, nella sinagoga, ma questo è diplomatico. Dove? Nazareth. E Nazareth che cos'era? Facciamo l'interrogazione, ecco, vedi che ogni tanto fa bene. Mettiamo. Che cos'era Nazareth? Dove Gesù è cresciuto. Veniva chiamato il Mottolese, veniva chiamato il Modugnese, veniva chiamato il Nazareno. Perché? È cresciuto a Nazareth, è nato a Betlemme, ma poi fino all'età di 30 anni, è vissuto a Nazareth. E questo vuol dire che è andato a fare una proclamazione del genere che abbiamo letto, dove? Fra i parenti, fra gli amici, fra i clienti che lavorava lì, fra i conoscenti, insomma, nel suo paese. E infatti, lo volevano uccidere. Lo stavano buttando giù da un dirupo. Vedete? Lo stavano buttando giù da un dirupo. Secondo me, ha scelto il momento sbagliato e il luogo sbagliato per fare una proclamazione del genere. Ma questo che cosa? Non è che il Signore ha voluto dire qualcosa pure a noi per caso? La tua città, il tuo parentato, i tuoi amici, i tuoi conoscenti, la tua strada. Forse, non vogliamo dire, ma forse ha voluto dire qualcosa del genere. Ha voluto dare un messaggio del genere a noi. Ma lui è andato a fare una proclamazione del genere, a dire il Signore, lo Spirito Santo mi ha unto perché io faccia questo, questo e questo. Sapete una cosa? Il Signore Dio Padre aveva già proclamato su Gesù. Vi ricordate al battesimo? Che cosa era accaduto al battesimo di Gesù quando lui si è presentato da Giovanni Battista? Una voce è venuta dal cielo e ha proclamato. Che cosa ha proclamato? Questo è il figlio mio diletto in cui mi sono compiaciuto. Sai che cosa dice questo? Che Dio, il Signore, può proclamare su di me e su di te mille e mille volte. Tu sei questo e io ti chiedo questo. E per te c'è questo e la promessa è questa. lo può fare migliaia e migliaia di volte. Ma se non sono io a proclamare e a credere, non viene nessuna vittoria. Ecco perché Gesù è andato proprio nel luogo più scomodo, nel momento più sbagliato, a proclamare quello che era venuto a fare. E questo il Signore ti chiama. Ha una chiamata per te? No, forse dire una chiamata è troppo grosso. Dice, no, una chiamata, sai, pastore. No, no, diciamo diversamente. Diciamo il Signore, hai capito? Hai capito da parte di Dio che Lui ti vuole in un qualche modo che tu serva, che tu sia per Lui, che tu operi per Lui. Hai capito una cosa del genere? Allora agisci. Allora agisci, proclama. Proclama quello che il Signore, confessalo, quello che il Signore ha detto. Sapete, questo è bello. Scusate se termino queste, meno male che non c'è mia moglie, se no dice sempre che io termino le parole a metà, le frasi a metà. Sapete come è accaduto con me 46 anni fa? Per qualcuno più di una vita fa, un paio di vite fa, no? Io ho conosciuto il Signore Gesù in maniera personale, l'ho accettato nella mia vita e l'ho conosciuto come il padre che non avevo avuto, come il padre che mi dava attenzione e che mi dava ascolto. E ero così fuori di me, così gioioso, che io ho espresso un desiderio. Ho detto, Signore, io desidero servirti. Come, quando, dove, non lo so. Però io desidero fare qualcosa per te. È accaduto dopo. Avevo tanto da fare, dovevo finire, tante cose, tante situazioni, le stesse situazioni che tutti quanti noi viviamo. Ma io ho continuato a proclamare, a confessare, a dire quel desiderio. Il Signore mi ha preso sul serio. Mi ha preso talmente sul serio che Lui ha trasformato tutto. I miei handicap e tutte le mie incapacità, tutte le mie timidezze, tutte le mie paure, tutto il mio non saper, non so ancora parlare in italiano, ma tutto il mio non sapermi esprimere usandolo per il vantaggio suo. Questo è agire, non fare, ma proclamare, continuare a confessare, e il Signore aggiunge laddove manca a noi. Molte volte noi, io vedo, io vivo, e anche io stesso, che siamo come quel operaio, questo al tempo di quando i sindacati funzionavano veramente, che avevano forza e potenza ormai. E allora si racconta che c'era una manifestazione in piazza e prima se ne facevano di tutto e quindi c'era una manifestazione per il lavoro e c'erano i sindacati e c'erano i politici e c'erano i datori di lavoro e c'erano e tutti quanti davano la loro opinione e il popolo stava lì a gridare lavoro, lavoro e c'era uno avanti a gridare con più forza, con più entusiasmo, con più passione, lavoro, lavoro. Tanto è vero che uno ha avuto talmente pietà, dice questo ci crede veramente. Allora si è rivolto a lui e ha detto, senti, domani vieni a lavorare con me. Ci ha creduto talmente tanto che è successo. Sapete qual è stata la risposta delle operai? E dice, ehi, fra tanti, proprio a me. E non è la stessa cosa che spesso noi facciamo con il Signore. Signore, ti voglio servire, Signore, ti servirò con tutte le mie forze. Quando poi il Signore ti mette le carte davanti e dici, ci sono quelli che sono meglio di me. Ma io ho guardato te, ma io ho scelto te, ma io voglio te. Allora proclami, cioè, ma questo vale anche per una qualsiasi difficoltà, per un problema, un'infermità, una malattia, una situazione infamile, qualsiasi cosa, proclama le promesse di Dio. Se c'è un'infermità, e dice ho pregato 100 volte, prega 1000 volte, continua a proclamare quello che il Signore è venuto a fare sulla croce, continua a confessarlo e credi, perché confessandolo tu alimenti la tua fede e alimenti la tua fede confessando le promesse di Dio. Il più delle volte quello che noi facciamo è che sappiamo fare molto bene. Sappiamo fare molto bene. Ho sentito il mio nipotino in Svizzera, il più piccolo, stasera. E non è stato tanto bene. Allora i genitori dicevano, beh, vieni a parlare con il nonno, con la nonna, vieni qui, stava sdraiato sul divano, che mo ti vedi, è bello questo. Cioè, siccome non è stato bene, dice, no, sono stanco. E sai, con quel dire, proprio lo vedevi che era stanco. E ho dovuto pensare, ecco, questo è quello che noi sappiamo fare meglio davanti al Signore, lamentarci. È incredibile come ci sappiamo lamentare. Gli facciamo tutta la cornice intorno, dando tutte le spiegazioni. Proclama, confessa le sue promesse. Gesù lo ha fatto nel luogo più sbagliato, nel momento più sbagliato, e il Signore ha realizzato quello che era il piano con il suo figlio. È stato il suo figlio prescelto, è stato il suo figlio in cui si è compiaciuto, è stato il figlio che ha portato la salvezza nel mondo. Perché? Perché lo ha proclamato. Io mi sono chiesto, sarebbe successo se Gesù, come primo atto, non avesse fatto quello di proclamare il motivo per cui era venuto? Probabilmente no. E probabilmente non accadrà nemmeno nella tua vita se non incominci a proclamare per vincere e a credere a quello che stai proclamando. Ma andiamo avanti. Un altro esempio. Beh, adesso leggiamo un passo in Giosuè, al capitolo 24, che per me è la più bella e la più grande proclamazione che ci sia. Vedete? E Giosuè che dice, alla fine, questo è l'ultimo capitolo del libro di Giosuè, e dice esattamente questo, davanti al popolo dopo che li aveva portati nella terra promessa, li aveva sistemati, gli aveva dato le porzioni a ognuno, dice questo, e se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire. O gli dei che servirono i vostri padri di là dal fiume, o gli dei degli Amorrei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia famiglia, serviremo l'Eterno. Quanto a me e alla mia famiglia serviremo l'Eterno. Che bella, che grande proclamazione. Ma non molto spesso, è un modo di dire anche esagerato, ma io sento dire: Non mi ascoltano. Questa è una proclamazione. Se tu continui a dirlo a te stesso e anche agli altri, lo stai proclamando, e più lo proclami e più accade. Non ti ascoltano. Non ti ascoltano. Oppure l'altro modo di dire è: non so come esprimerlo, ma il modo che sente, no, ognuno deve fare la sua scelta, perciò sono liberi. Parlando dei figli, parlando dei parenti, parlando degli amici, parlando degli altri. Però caspita, quando fanno qualcosa che a te non piace, tu diventi un leone e lotti contro e ti scagli e fai in modo da non far realizzare quella cosa. E allora il Signore sta dicendo, proclama, vuol dire diventa un leone, diventa un coniglio, diventi una volpe. Diventa quello che vuoi diventare, anzi Gesù dice diventa un serpente o una colomba, ma non ti arrendere, proclama, lotta, tira fuori, perché questo è il mandato di Dio per noi. Allora non ti ascoltano, prega. Cioè, sai, la preghiera è molto bella, perché sapete perché? Perché la preghiera, anche quando qualcosa non va fra te e tua moglie, prega insieme, fra te e tuo marito, prega insieme. Perché ormai se qualcosa non va, avete litigato, qualcosa del genere, non c'è tanta comunicazione, è vero? Poi si comunica a grugniti. E queste sono i modelli. Però quando poi vai a parlare con il Signore e pregate insieme, dice: Signore, tu conosci, e viene lento fuori, però esprimi quello e sai quello che cerchi le parole, perché fai in modo che sia il Signore a rispondere all'altro. Allora tu non arrivi al cuore dell'altro, prega, prega, perché questo è un rimbalzo e il Signore lo fa. Perché? Perché tu stai proclamando, perché questo è il modo per lottare, per vincere. Anzi, vedi quanto è bello, e tu questo lo dovresti proclamare ogni mattina e ogni sera, quando ti alzi e quando ti corri. Quanto a me e alla mia... Anzi, facciamo una cosa. Quanti si sposeranno quest'anno? Li posso vedere? Alzatevi in piedi, per piacere. Anche questo è bello. Cioè, e tu ti sposi da solo, non ho capito. Ah, è dietro, va bene. Anche quello può accadere, uno può avere l'intenzione, Tonio, anche quello può accadere, uno può avere l'intenzione e già l'intenzione è una proclamazione, va bene. Ma che confessate, proclamate, quanto a me e la mia famiglia, noi serviremo l'Eterno. Amen. Anzi, adesso, già che mi piace, sedetevi, un'altra categoria. Posso vedere quando io, sapete perché l'ho fatto? Perché ho visto Vittoria e allora ho detto, questa è una bella categoria. Voglio vedere tutti i nonni in mezzo a noi, in piedi. I nonni. Ehi, nessuno è nonno. Ma vedi... I nonni, quanto sono belle i nonni. Ah, questo mo non ho capito. Ma se, no, non l'ho capito. No, state in piedi, per piacere, state in piedi. Ma non ho capito una cosa. Filomena è nonna e Nicola no. Com'è il fatto? Dice, ma è un figlio di un'altra categoria. Proclama, quanto a me e alla mia famiglia, l'hai fatto con i tuoi figli, fallo con i tuoi nipoti. Anzi, proclamiamo tutti insieme, quanto a me. Amen, amen, ogni sera, ogni giorno, quanto a me e alla mia famiglia serviremo il Signore. continua a proclamare sui nipoti, sui figli, sui pronipoti, quello che è, perché è la tua famiglia, è parte di te. E questo dice, proclama Giosuè, ma dà esempio anche a noi. L'ultimo aspetto, leggiamo in Luca, al capitolo, e questo riguarda tutti quanti noi, tutte le nostre, qui ci sono tutte le situazioni, tutti i risvolti. Luca capitolo 9, se non sbaglio, sì, 9, dal verso 50, è anche un passo che conosciamo molto bene. È Gesù che mentre camminava, ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse a un altro: seguimi. Dovrebbe continuare. Lo devo andare a cercare, non è stato messo solo, ma è fino al 62. Va bene? Ah, continua, è solo che sono più veloce di un computer. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse: nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Ecco, queste sono situazioni che ci identificano, o almeno che in cui mi identifico, in diverse, in alcune di questo. C'è il primo che dice: ti seguirò ovunque. Ora, voglio fare una domanda. E voglio anche una risposta. È molto semplice la domanda. Amiamo Gesù? Crediamo che Gesù guarisce oggi? Che salva oggi? Signore, ti seguirò ovunque. È la stessa cosa. Perché avete risposto sì? Crediamo veramente o perché io vi ho spinti a dirlo? Ma anche quello è buono. Noi dobbiamo collegare la mente al cuore, quello che noi confessiamo a quello che noi crediamo. Perché sì che Gesù guarisce oggi, ma io lo credo veramente per il mio braccio? Io lo credo veramente. Lo credo veramente che il Signore vuole salvare persone oggi in questa società, con l'ambiente che ci circonda? Lo credo veramente che lo vuole fare tramite di me? O la mia è solo una preghiera: Signore, salva. Ed è Lui che deve far avvenire, che deve fare i miracoli sempre. Signore, fa miracoli, ma tramite di me e di te, tramite di noi. Ecco il proclamare, ecco il dire. Gesù lo fa, ma io lo devo veramente credere. Gesù lo fa, ma io lo devo veramente credere. Credi nella situazione che vivi. Il Signore lo vuole fare. A un altro ha detto: Gesù, tu seguimi. Caspita, è Gesù che lo ha detto, che lo ha chiesto. Gesù ha chiesto, ma tu immagini se proprio, non lo so, una visione di quelle, non lo so, una visione, va bene? accade, Gesù dice, tu devi fare questo. Sì, sì, Signore, certo, l'hai chiesto tu, però prima devo applicare il quarto comandamento. Onora tuo padre e tua madre. Siamo tanto abili noi nel trovare anche le giustifiche bibliche pur di non fare. E questo è quello ha detto. Io devo andare a seppellire il mio, mica tu mi, cioè, sei con... Gesù gli ha risposto proprio fra i denti, lascia i morti seppellire i morti, ma tu annunzia il regno di Dio, l'Evangelo. A questo il Signore ci chiama. L'altra situazione ancora è un altro che dice, ti seguirò. Questa, ancora più che più vicina a noi, ti seguirò. Dammi un secondo solo, quando vado a salutare. Lui voleva solo salutare quelli di casa sua. Fammeli andare a salutare. Ed è quello che noi diciamo molto spesso, troppo spesso al Signore. Sì, Signore, io lo voglio fare, però prima il lavoro, però prima il matrimonio, però prima la casa, però prima... Noi troviamo tante cose che vengono prima dall'ubbidire a quello a cui il Signore ci chiama. E sapete, è molto bello Ecclesiaste. Leggete qualche volta Ecclesiaste? Ecclesiaste è quello di inizia proprio in una maniera drammatica. Vanità delle vanità. Tutto è vanità, ti viene da metterti già nella tomba, dice, ormai è quando leggi quello. E proprio dice, il sole sorge, poi tramonta e poi si affretta ad andare al luogo dove deve sorgere di nuovo. E poi... tramonta e poi di nuovo si affretta. C'è sempre domani. C'è sempre domani. E questa è la proclamazione più sbagliata che noi possiamo fare. Domani. Il Signore dice ora, non domani. Se tu comprendi che il Signore ti chiama ad accendere la tua fede per qualsiasi motivazione, per te stesso, per la tua famiglia, per un fratello, per qualsiasi cosa, per una chiamata, è oggi, non è domani. Oggi è il giorno accettevole, non domani. Domani non è oggi. Non è quando il Signore lo dice. È credere, non ci sono impedimenti, va bene? Puoi avere uno grande quanto la casa, ma non è impedimento. Termino con questa storia vera. L'altra sera, forse qualcuno come me ha visto, io non lo so come si chiama quel programma, quello dei primati. No, in italiano, per piacere. Guinness dei primati, va bene, Guinness dei primati. Senti questi, va bene. Pure sopra la preghiera usano certi termini. Com'era? Reminder! Ehi, noi facciamo reminder! Fate un passo avanti per chi capisce quello che dobbiamo fare. E stavamo tutti lì ad essere, che cos'è sto reminder? Non l'ho capito ancora adesso, ma va bene, abbiamo pregato. A un certo punto di questo programma, è venuta una donna, che secondo me era una credente, E lei è nata, l'avete visto questo? Senza braccia, senza tutte e due le braccia. Che fa una che è nata senza braccia? Che cosa usa? Lei ha usato i piedi. E quel che mi ha impressionato è che usava i piedi pure per dare la mano. È diventato avvocato, si è sposato, si è sposata, ha figli, e il presentatore gli chiedeva: ma come si fa senza braccia? E lei ha dato una risposta semplice e incredibile, ed è la stessa che vale per noi. Ama, ama sempre e in ogni situazione, ama. Poi ha detto: abbi fede, credi, credi, oltre quello che vedi. E poi, proprio lì, sii riconoscente, sii riconoscente. Qualsiasi è la situazione che stai vivendo, sii riconoscente. Sono queste cose che ci permettono di vincere e di realizzare il piano di Dio per la nostra vita. Perciò proclama. Proclama le promesse di Dio. Proclama quello che Dio vuole da. Dillo anche agli altri. Compromettiti. Dillo agli altri, non fa niente che ti prendono per pazzo, tanto sei già pazzo. Proclama, ed è questo che permette alla vittoria di Dio di entrare dentro di noi in ogni situazione. Abbiamo visto per la nostra chiamata, abbiamo visto per la nostra famiglia, ci sono tanti altri esempi, andateli a leggere e a scoprire nella parola di Dio, che parlano al nostro cuore in una maniera incredibile e danno l'esempio di come vivere e come vincere nelle situazioni che noi viviamo. Sappi questo, che qualsiasi situazione stai vivendo, Gesù è più grande e vuole che tu la vivi in maniera vittoriosa. Amen? Vogliamo alzarci in piedi. Signore Gesù, vogliamo dirti veramente dal cuore grazie per la tua parola. È, come è scritto, realmente una fonte di acqua viva per noi, che ci dà vita e rinvigorisce ogni nostro membro. Noi vogliamo, io voglio vivere così, oh Gesù, io voglio vivere così, perché solo in questo c'è la gioia e la pienezza della vita, non in quello che posso realizzare o non realizzare, ma facendo quello che tu mi chiami a fare. E questo io prego per ogni mio fratello, ogni mia sorella, qualsiasi è la situazione che sta vivendo. Signore, tu sei più grande e più forte, e vuoi reclamare da noi che noi vinciamo anche per l'opera e per il regno tuo. Signore, inonda i nostri cuori della tua gioia, del tuo timore e dell'amore per te e per la tua parola. Nel tuo nome, Gesù. Amen.